Rivolgendosi agli discepoli gli esorta dicendo: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. E noi sappiamo che la perfezione del Padre secondo Gesù sta nell'amore, sta nel suo essere ricco di misericordia. E dunque, se ci mettiamo in questa prospettiva, vediamo che essere perfetti come il Padre, arricchire di fronte a Lui, in definitiva significa crescere nella capacità di amare, nella capacità di donare noi stessi. In fondo Gesù qui vuole mettere in evidenza, potremmo dire, una legge che si potrebbe esprimere così: non si possiede davvero se non quello che si è disposti a dare, quello che si è disposti a non trattenere soltanto per sé. L'esperienza ci insegna che per trasportare l'acqua con la mano non bisogna stringerla a pugno, perché altrimenti l'acqua scivolerebbe via, ma bisogna invece tenere la mano aperta, proprio come quando si vuole offrire qualcosa. In qualche maniera lo stesso accade per noi stessi, per la nostra vita. Tutto ciò che ci illudiamo di trattenere stringendo le mani a pugno, ce lo ritroviamo sottoposto al rischio di perdere per sempre. Invece, se siamo disposti a condividerlo, allora ce lo ritroviamo restituito in modo sorprendente. E qui non si tratta soltanto delle nostre cose o dei nostri soldi, ma direi si tratta anche e soprattutto del nostro tempo, delle nostre risorse di intelligenza, di amicizia, di affetto, di solidarietà. Ecco, senza dubbio a tutti noi che siamo qui sarà capitato di non poter fare a meno di ammettere, dopo aver vissuto qualche esperienza particolare di servizio, di dedizione, è più quello che sento di aver ricevuto rispetto a quello che sono riuscito a dare, a donare. E sono convinto che questa non sia semplicemente una frase fatta. Sono convinto invece che sia un modo di esprimere quella legge fondamentale che ricordavamo prima, quella legge che l'Apostolo Paolo, nella pagina che ci è stata proposta come seconda lettura, ha ripreso attraverso l'invito che propone con forza ai cristiani di Colossi: rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. E le cose della terra sono gli atteggiamenti che Paolo, ma anche Gesù, nel Vangelo che abbiamo letto, riassumono in quella che viene definita la cupidigia. La cupidigia, appunto, è la tentazione illusoria di salvare la propria vita attraverso il possesso, l'accumulo dei beni. È la tentazione dell'uomo vecchio, di chi, chiudendosi, impiegandosi su se stesso, finisce per perdere anche quello che pensava di poter trattenere. E al contrario, l'uomo nuovo sa che si possiede soltanto ciò che si è disposti a donare. E proprio per questo cerca le cose di lassù, ossia, come dicevamo, cerca di arricchire presso l'uomo, cerca di essere perfetto nell'amore con il Padre Celeste. Insomma, l'uomo nuovo coglie tutte le buone occasioni che gli sono offerte per vivere l'atteggiamento del dono, della dedizione, della condivisione, della misericordia, appunto ad immagine di colui che lo ha creato. E allora domani in questa Eucaristia la grazia è grande di riscoprire ogni giorno, direi, il gusto per quell'unico bene che è in grado di dare significato e valore ai molti beni a nostra disposizione, quel bene che ci rende capaci di vivere non con la cupidigia dell'uomo vecchio, ma con la gratitudine.